Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. La tassazione del lavoro dipendente è la principale fonte di finanziamento degli Stati membri dell'Unione. Per i lavoratori, peggio dell'Italia, c'è solo il Belgio. Sentiamo servizio. Sempre più tasse sul proprio salario. Si potrebbe quasi dire che i cittadini europei lavorano per pagare le tasse, perché le tasse sul lavoro sono la maggiore entrata fiscale nell'Unione. Detto ciò, le differenze tra paese e paese sono ragguardevoli. Al capitolo tasse sul lavoro, nella zona euro, i belgi sono quelli messi peggio. Quasi il 43% di quanto guadagnano va a finire nelle casse dello Stato. Ma in merito alla tassazione sui capitali è la Francia ad aggiudicarsi la palma, con un 44,4%. Al netto dei singoli comparti la media è vicina al 40%. L'Italia, come la Svezia, la Danimarca, la Francia, la Finlandia e l'Austria sono al di sopra della media. Inutile tagliare le tasse solo sui redditi da capitale, afferma James Watson, capo economista di Business Europe. Bisogna pensare a una riduzione generale, perché ciò di cui abbiamo bisogno è di favorire la crescita e l'occupazione. C'è un problema di equità, aggiunge Rudy De La Rue, direttore dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Al momento il sistema si basa per lo più sulla tassazione del lavoro perché è più facile da identificare. Secondo De La Rue, il sistema dovrebbe basarsi anche sulle transazioni finanziarie, sui redditi da capitale e sulla proprietà. E poi, anche se la tassazione è espressione delle politiche nazionali, la cooperazione in Europa e fuori potrebbe rappresentare la chiave di volta. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Valeria De Rosa con Letizia Marcacchis per Euronet Plus, che ha intervistato James Watson e Rudy De La Rue. E dopo la missione nelle capitali europee di Enrico Letta e l'allentamento dei tassi da parte della BCE, si apre una fase cruciale nei negoziati tra governo italiano ed Europa. Roma deve incassare nelle prossime settimane i benefici della chiusura della procedura per deficit eccessivo. Enrico Brivio. Cosa significa? Avendo riportato, grazie agli sforzi compiuti, il deficit al 3% del PIL, come prescritto da Maastricht, l'Italia non è più fuori regola e sarà collocata quindi nella fase preventiva del patto di stabilità. Questa prevede una sorta di lascia passare per la spesa per investimenti produttivi, che non verranno più contabilizzati nel deficit. Si tratta di un'opportunità nuova, in vigore dal 13 dicembre 2011, che non è stata ancora utilizzata da nessuno. Bisognerà quindi negoziare duramente a Bruxelles e soprattutto coi tedeschi per riuscire ad applicare questa clausola nel modo più estensivo possibile, per lo sblocco dei 90 miliardi di crediti della pubblica amministrazione, ma non solo. E questa è la partita decisiva e urgente ora. Non tanto la revisione dei vincoli dei trattati europei, come dice qualcuno a sproposito, che richiederebbe mesi e ci legherebbe le mani. Importante invece farsi riconoscere tutti i buoni voti di un buon alunno che ha fatto i compiti. Non cercare di farsi rimandare a settembre. Enrico Brivio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si chiude oggi a Dublino il Consiglio informale competitività, un'occasione per fare il punto sulla situazione delle PMI. 28 miliardi di euro complessivi mobilitati per le piccole e medie imprese, la Commissione europea snocciola le cifre dei finanziamenti alle PMI comunitarie che Bruxelles definisce motore della ripresa, ma che troppo spesso sono finite stritolate per prime dalla mancanza di credito. I numeri sono incoraggianti: nel solo 2012 la Banca europea per gli investimenti ha finanziato le piccole e medie imprese con 13 miliardi di euro. Il commissario europeo all'industria Antonio Tajani ha affermato di voler estendere il sistema di garanzie dei prestiti per le PMI anche nell'ambito del nuovo programma COSME che partirà il prossimo anno. Intanto la Banca Centrale Europea ha manifestato l'intenzione di trovare nuove e più efficaci modalità di erogazione del credito proprio alle piccole e medie imprese, soprattutto nei paesi più colpiti dalla crisi. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono Federico Taddia e oggi vi voglio presentare il concorso Quel fresco profumo di libertà, promosso dal Centro Studi Ricerche e Documentazione Sicilia Europa Paolo Borsellino, è aperto a tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado. Gli studenti sono invitati a partecipare con video e prodotti multimediali finalizzati alla riflessione sui temi della legalità, della lotta alle mafie, della cittadinanza attiva e della pace. Per informazioni www.centropaoloborsellino.wordpress.com. Alla mail europa@radio24.it ci sono arrivate nelle ultime ore diversi messaggi che chiedevano chiarimenti sul MOOC, il Massive Open Online Courses, che al di là del nome, insomma, è l'offerta formativa gratuita che segnalava ieri Federico Taddei. Allora approfitto per ricordarvi su questo punto che ritrovate tutto quanto, tutte le informazioni sul sito radio24.it, naturalmente alla pagina di Europa 24. Con questo abbiamo concluso. Europa 24 naturalmente torna lunedì alle 13.15. Buon fine settimana. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.